proprio qualcosa di interrotto, perché non è possibile. Qualcosa di interrotto c'era. Ciao. E allora, com'è andata oggi? Oggi è pesante, pesante. Vabbè, dai, io vado a mangiare, adesso mi ho chiesto lui per salutare. Ehi, ehi, comunque venuto lì, Pistolucci. Non lo sapevo. Poi il tubo gli ha cambiato, gli ha fatto un po' più lungo e l'ha cambiato, adesso lo sappiamo bene. Scappa. Evidentemente si è allargato, si è allargato dove è attaccato. Ho pigliato un calore lì sul tubo, come andava a attaccare il regolatore. Sicuramente dava problemi. No, tutto. 4 giorni lui ce l'ho, il tubo nuovo, non lo fanno cambiare, capito? Ti ricordi che me l'aveva portato, però non me l'aveva cambiata. 4 giorni l'aveva cambiato il tubo, era nuovo, nuovo. Da quando ha cambiato il tubo, come se tu dici ancora, però già l'ho visto io cosa ha fatto. L'ha alzato lo tubo a chi era incastrato. E mi ha rotto il pannello di dietro dove c'è la bombola, no, c'era un pochetto dove passare il cavo e dove passare il tubo. Lui ha tirato, l'ha tirato smembrato proprio, l'ha crepato proprio il tubo di coso che c'è, che metto, no? Il pannello, l'ha tutto crepato, probabilmente stracciando e facendo, l'ha bucata. Non si buca così facilmente il tubo, Se si è bucato questo vuol dire che non è di buona qualità, perché è fatto a 3 strati, c'è la gomma in superficie, sotto c'è la reticella e sotto c'è un altro strato di gomma. Non si buca così, no, già. E sono sempre le cose fatte così a raccapo, che non guardano niente, si mettono a toccare. Adesso per carità, guarda. E oggi non passi più di oggi, ho dimenticato la vita di Rugorro in terra. Sassassa. La giambella di Rugorro mancava in chi? 50 anni nel settore! Hanno fatto un po' lavoro così, Non mi sono sempre di quando mi va qui, la verità mi faceva tutto perfetto. Capa, scusa se ho fatto la... ci credono molto, ci credono, però non fanno le cose con la testa, non fanno, sempre così sono, dai. Io se lo faccio il lavoro, lo faccio per farlo bene, altrimenti dico, non te ne faccio. Vabbè, a parte che sono lavori che bisogna essere molto attenti, bisogna stare attenti perché sono lavori che possono implicare anche la vita degli altri se sono fatti male. Adesso tu a me dire che io accendevo la luce e mi copiava di drogando, lo sai che mia moglie ha trovato il gas anche nelle mensoline. Il gas nella mensolina? Allora, ci sono pienate tutte le mensoline di gas, quelle di sopra, dove metti i piatti, tutto riempito di gas, come una parte di un fiago dei chimici. Si è impregnato nel legno già, è logico che come stava perdendo, è logico che si sente perché si è impregnato nel legno, ha fatto quello lì. Va bene, già dammi 5 minuti che mangio e riprendo subito. Qua sotto, infatti è chiuso la porta a chiave, te non entrate qua, non si sa mai chi vive nei lati della luce, che già ha fatto una passata di scopa nell'aria, così, ha fatto uscire, ha lasciato le finestre aperte e ho chiuso la porta a chiave, per non entrare, ho fatto uscire anche a chi ti fu. Bella, lo so già, trasmettina, perché fanno le cose senza guardare nulla, proprio si credono, cioè i grandi e poi no, alla fin fine sono quello che sono. Vabbè dai, vabbè, io ci vado a mangiare. E dopo 3 volte è venuto. Una volta avevo chiamato a chiudere a via di gas, ha messo il tubo tutto qua, tutto a posto, chiamo la seconda volta e torna a via di gas, dice se c'è problemi chiamami di nuovo. Nel momento non c'era la giugna di gas, qui apro la porta e c'era di nuovo. Ma quanto la chiamata? Vai, tranquillo, buon appetito, buon carica battito. Ma sono andato a farmi le mani, dai, che vado a fare carica, riprendiamo subito. Se non guardano niente, fanno i corsi di usci e si napute, intanto la roba non è loro, è la tua. Io non è che voglio dire niente a nessuno, però le cose si farà bene, non si fa tanta pubblicità, anche nelle stazioni radio e poi cavolo, sono quello che si sono di essere. Va bene, dai, e ci chiedono a mangiare. Vai, tranquillo. Poi c'era uno sbaglio in quella pubblicità, io l'avevo notato, non so se voi l'avete notato, ma io sì. Attenzione, KP2, chi sì? Buongiorno, ma sarà bene chi sia? Chi è questo giudice? K2. Ciao K2, non siamo noi che dobbiamo stare attenti, sono chi viene a mettere le bombole che non sta attento. L'arrestato. Sì. Ne mi brigamo, ne gioca bizzata. Perché lì basta che accendi la luce, e esplode così tutto. Ah, l'amore, a pianera. Sì, c'era un bel viodo. Meno male che io faccio questi tipi di servizio, quindi so come comportarmi. Gli ho scompatto dall'aria tutto quanto lo vuoi, tutto il gas che c'era, l'ho mandato fuori. Con la scoppa, l'ho tolto fuori e ho aperto le finestre. E io stavo rimanendo con Monuzzo. Forse del carbone? Sì. Come fai? Abbiamo messo della grassa nelle stanze per saldare. Grazie, stavamo lasciando le cose. Il bracciale? No, avevamo il caminetto, però per saldare gli altri stanze, la camera da destra. Tutto qua. Entro notte, perché si chiama di amare, li ho fatti. Ma è mai fare queste cose, specialmente dove dormo. Sbaglia una volta, non si sbaglia, è andata a questa. È meglio che vada così, Se va male ci rimani, Quanti zingari ci sono rimasti così con queste storie qua? Devono uscire del carbone perché si accende un bracciale dentro la roulotte e poi si accappa il grimbato. Tutto così, si brucia già tutto. Una camera va bene, o cammino, cosa c'è, ma cammino piglia pure, capito? Lì sempre la succede, perché non veniva tirata e si spandeva nella stanza. In campagna perché? No, da qualche mese sono qua. L'hai preso nella casa di Sassi, e prima dove abitava San Giovanni? A Cavito. A Cavito? Il vecchio Leone lo conosci, tanti anni fa. Leone? No, negativo. Che ti aveva fatto quella cosa sulla posizione del 76. Ma non l'ho mai sentito, ma cos'è l'autista, cos'è? No, c'è una baracca montata. Dove abitavo? In via Torrentano. Ma non l'ho mai sentito, Leone. No, perlomeno che mi ricordi, no. E da quelle parti lì, ma penso di non averne mai sentito, C'era Roberto 33 che era via Sorso, però via Turritana proprio, mai. No, quelle parti lì, non l'ho mai sentito, non penso che abbia mai sentito nessuno di quelle parti, No, poi Leone mi sarebbe venuto in nominativo, perché quando veni in nomino, cioè di nominativi subito mi vengono in testa, me li ricordo. E solitamente quando mi nominano i nominativi che io conosco, anche se sono di tanti anni fa, mi vengono subito in mente che li conosco. Questo non l'ho mai sentito. E chi è tuo Dio? Questo Leone non me lo ricordo perlomeno. Magari lo sentite, non me lo ricordo. Diciamo zucchero, camomilla, farmacia, frigorifero, ma Leone è brutto. Volo di carica, come si chiama? Fai che tu di stanza? No. Altro di stanza, se me, che avevo un po' di stanza di stazione. Lo parlo già un po'. Carica, chi era l'operativo? Ho avuto un affare con Falchetto, non vado a dire. Falcone era, non Falchetto. Tu, Vinucci. Ah. bravo, bravo. Falcone? Ma era malato. Ma non c'è più, quello, diciamo. Stiamo a parte, va. Sono morti i genitori, la sorella se l'ha portato a casa sua vicino al sorso e non gliene fa mettere, l'abbiamo anche chiesto se glielo faceva mettere, non gliene fa più mettere. Perché faceva cose, non so se te l'hanno raccontato cosa faceva. No, non so solo che era un pochettino fantastico. Faceva il gioco della calcio. Sarebbe stato. Diceva, ce l'ha le calze, sì, le scarpe, sì, come si è vestito quei pantaloni. Allora comincia a toglierti le scarpe, poi piano piano ti togli le calze, poi ti abbassi i pantaloni e mi fai sentire il pelo delle gambe. Allora l'ho fatto. Poi cominciava. Aveva la fissazione del sesso maschile, era malato di testa, non era come dicono fino che va bene. Aveva la fissazione, ogni malato di mente c'è la sua fissazione, c'è quello che ha la fissazione di andare in chiesa, si sente le chiese di Sassari, c'è quello che ha la fissazione del sesso femminile e va a rompere e pagare il ragazzo, c'è anche quello che ha la fissazione del sesso maschile come lui. E allora un po' di ragione ce l'ha perché. Beh, stava tutta la sera proiettata. C'è chi ha fatto il muro a qua. Sì. Ascolta, io ci siamo più tardi, dai. Vabbè, ciao. Thank you. scusami, troppo effetto ecco. Perché sto usando quel microfono che ti ho fatto vedere già. Sono andato con l'Intec 340 e poi ho distinto a 40 canali. E forse quel microfono che mi si chiama M300. Ehi, ehi, vabbè, la modulazione è buona. Il segnale che non è forte, da lì io sparo la macchina. Sì, però aspetta che posso appena, rimane lì che posso appena. Adesso è finito di piazzare. Che posso appena più avanti, Ehi, ehi, dai, la voce c'è chiara, non è che c'è problema. Ma il segnale non è fortissimo, confermato. Cosa fa? Fermato, il segnale non è fortissimo, capito? Adesso ci dirà se è attaccato qualche cosa. Quello è da verificare. Rubani, battelli, va. Mannaggia, vedi. Se mi trovo non si fa le busche. Vieni giù qua, vieni da lì, vieni qua. Gianni? Eia. Sono spassato, sono di una cinquantina di metri, adesso vedo ancora bene Sassari, come mi dicevi? Ora, adesso dovrebbe arrivare perché sto proprio di fronte a Sassari. Santiago 5, la radio 5 a bocca. Eccomi qua, sono ritornato. Capri 2. Ma perché arrivano quelle coordinate? Io ti vedo, quella puta, da casa. Ciao, Antone, mi avete quelle coordinate a fondo scala, tu mi avete. Lo sapete che c'è il nino della macchina? No, parchetto sono. Ma perché avrei superato il 10 e parli forse con una collezione a Gianni, lo ricevo meno di te da qui. Cappa, perché io c'ho il binocolo e ti vedo lì, vedo la punta dell'antenna, Yeah. momento passo le correnti, se tu mi puoi chiamerò, eh. Ok, ti lancio il tempo all'Antonio. Ma parlo, Roger. Molto bravo come meccanico. meccanici. Lavora il padre, il fratello, e l'altro fratello lavora a Sassari. Quindi, porco come lavorano anche. Parocero. Va bene. E poi si pure che li conosco, perché a Pulita sono i suoi amici e... potrei anche immaginare, forse se non mi sbaglio, dove c'hanno il ristorante loro, eh? Cappa. No, c'è una bella. C'è una bella zona quella. Cappaloccio. E tu, ripreso ti sei a tu? Sì, già mi sono ripreso, mi sono rientrato al lavoro. Sono contento, dai. Ascolta, ma si sente un po' l'eco di questo microfono? Leggermente. Non il microfono come fa l'eco. La radio, almeno che non ci ha messo qualche mio microfono. Ah, non è la radio, no, è il microfono. Guarda adesso. 1300 stai usando. Positivo. E l'altro? L'altro poi in cassetta. Ah, ha lasciato di riserva. Positivo, dai. Molto l'eco o è poco? Va bene così, complessiva la voce a tu. No, va benissimo, va. Va bene. E io so, non mi capisco, c'è un bel dinamo. Lo so. Costa un sacco di soldi, bisogna tenerlo bene. Ma perché non ha nessuno con le 1300, perché ha avuto un culo a trovarlo, guarda, una fortuna enorme. Perché non se ne trovano più. Vale, questo lo sto utilizzando adesso. Eia. Lo pagano anche bene quel microfono lì. Io non l'avrei dato a nessuno, qua se lo buscherei adesso stesso non lo darei a nessuno, perché non se ne trovano. No, fatta, questo già è un culo dove sono riuscito a trovarlo. Allora, quando modulavo 15 anni fa usavo questo, capito? Modulavo dalla BM e con questo microfono qua era la bomba. E infatti non vanno a nessuno, io ti sto dando il consiglio, si gelano di quel microfono, perché non se ne trovano in giro. E quello che trovi, trovano in pagamba di Dina. No, questo rimane a casa, tranquillo, questo è costruito dentro una botte di ferro. Ne sto cercando uno, ne sto cercando. E quel cursore che ha, allora lì bisogna dargli del lei, perché si consumano i carboncini, capito? Va bene. L'importante è che si sente ancora, poi già si cambiano i carboncini, già si trovano. E ha una specie di cosa così. Allora basta toccarlo poco e non succede niente. Allora comunque quello lì tienitelo stretto perché è una fortuna che... perché non se ne trova, non ce ne sono più in commercio. Allora la marca del tuo apparato è? Che è la marca dell'87. No, è la marca del tuo apparato, dell'Intec. Sì, Intec è quello, è l'M300 Intec. Sono una bomba di microfono, una bomboletta solo. Sì, ci sono buone, no. Bene, e beh a tu, comunque ti sei ripresa la grande, l'hai ripreso, un casino di lavoro, a te mi dai una poltroncina. E io sono qua tu, quando sei a comodo io sono qua. Poi qua. Aspetta, mi sono lasciato il telefono, no, forse ce l'ho fatta per il pulito, non stavo sbagliando, no, già è tutto a Roger, c'ho tutto qua, portata di meno, vai. Papà, io sto usando l'Airbex con la mia TP5, bene mi sento. Aspetta, la bomboletta tu, perfetto, chi era al centro? Papà, ma a me ha detto una persona che si prende le mie TP5. Sto cercando MVP5. No, prendo, se dovessi prendere quello da tavola, prendo l'MP4 che è più adatto per questo baracchino, dai. Dici, è perché quello non va bene. Ah, devi regolare casino, quello tutto quanto è corporato e non fa altro che accendere e parlare, come quello che mi ha prestato tuo padre. Ma proprio luci così, però bisogna metterle in mano, lo sai. Li metteremo in mano, tu, vedremo. Oh, non lo sto prendendo adesso, io ho detto che lo prenderò ma chissà quando. Ma quella è una cazzata, amici, c'è solo un clima, cioè, per tenere la ventone e basta, non è che sia tutta questa cosa, no? C'è il coso del volume e più c'è il coso per regolare il tono. Dipende come la voce, come lo giri, te lo fa più grossa secondo che apparecchio è, dai. Se no ti tieni tutti i toni chiusi e va bene. Secondo che sull'intake mi sembra che si girava un pochino. E te la faceva un pochettino e te la faceva più grossa, dopo il discorso. E allora adesso vediamo, qua non sta prendendo niente ancora perché denaro è alto. E vabbè, quando sarà? Una pizzeria, le mie più 5. Vabbè, lo sai cos'è, costa un po' di più e basta, non è niente di particolare. Quando sarà il momento, tanto mi interessa più piazzare una buona antenna che è più importante del microfono, tanto meno, Ma già non c'è più. Sogliati, sì, non più. Ma poco fa chiamandolo. Gianni. Che ha fatto? Ti metti una lingua, ti metti e vai alla grande. Cioè, praticamente una mano va senza radiare. La Ringo? Ringo? E allora? Cosa costa la Ringo? Ma quanti a euro? Gira, faremo così. Ma tirate ci vuole la tua. Un palo corrotto ci vuole. È più leggera della mano qua. Se no è una via di mezzo, hai capito? Se poi ti vuoi mettere la manta, un ballo si mette la manta, è alta 5 metri e più, 6 metri, mi sembra che 5 metri è qualcosa. Ma prende il cucciaro la mette, se va bene. C'è la molla per tagliarla e tutto quanto. Ma la sta parlando la riga? Se non vuoi mettere la mantova va bene quella, se poi ti vuoi mettere un'antenna forte e demone la mantova o una super leve, qualche cosa di forte, cioè che una 5-8, poi se poi ti vuoi mettere una via di mezzo va bene quella. Positivo, allora adesso vogliamo darsi al denaro, faremo tutte cose. Papà, 5 di B mi sembra che c'ha. 5 o 6 di B, una cosa del genere. Tiene, ti puoi attaccare anche una bella stufa lì, Ti pare che se non aumenta delle 3.000 watt. Capa roccia. Capa di roccia. Andiamo da bene, vai. Va bene, va bene con l'antenna, che parola. Cappa. Già andava bene. Se poi vuoi mettere un'antenna che vuoi fare un lavoro come si deve, poi cioè un lavoro definitivo, un'antenna grande, ti metti una mano, ma ci vogliono i tiranti, ci vogliono perché la devi un palo buono, perché la devi assicurare bene, non è così. Ci vuole un po' tutto. Non è detto che non devi assicurare bene pure quella, pure quella lì è un'antenna più grande, giustamente devi metterle una cosa come si deve, però qualche tirante glielo devi mettere anche, però la mantova è pesante. Vabbè, poi magari adesso metto una via di mezzo, poi a te metterò qualcosa di buono, una di Sirio. E scappa, e volevo smettrata pure, Forse faccio un affarone, forse mi danno una radio che trovassi e va a passare a tiro tutto il tutto con lo 200 io, tu cosa dici? Si può fare l'affare? Dove c'è il mezzo? C'è la tarantola a casa che funziona a 220, poi mi dà un altro per l'ATM e un microfono che è difficile trovarsi, adesso non mi ricordo la marca ma usciva la bomba. Se tu hai mai sentito Mario Occhi di Gatto, hai sentito Mario? No, negativo. Tutto per 200 euro. Sì, l'ho sentito io, conosco io. Perché se lo sta vendendo, perché lo sta rientrando, sta poco bene di salute, capito? E purtroppo lui abita a Irola e ci vuole fare lo saltino. Già, già ritornato, se non l'ho mai sentito. Ah, mi sembra un po' eccessivo. Avanti già. Io mi sono svegliato, ero dormito. Cazzo, stavo dicendo l'occhio di gatto, lo conosco io, dai. Se tu hai conosciuto l'occhio di gatto, ti ricordi che lui modulava con quell'apparato di casa, diciamo, vai, stazione fissa. Adesso non mi ricordo che microfono, che marca di microfono, ma usciva una bomba quell'apparato lì. Che apparato era? Non mi ricordo, guarda, non mi ricordo, forse come quello di Pompolio. Ma occhi di gatto modulava a Sassa, non a Irola. Ma divino, lui prima viveva a Sassa, adesso si è sposato e vive a Irola, capito? Me l'ha detto una persona che lo conosce abbastanza bene. Non so se è lo stesso. Guarda che avevano gli occhi chiari, tirati, tu lo conosci? Io ho conosciuto il verticale, ti ripeto, lui era un ex guardia giurata, capito? E ora che fa? Adesso è in pensione, non sta più modulato, e sta vendendo l'apparato suo, non mi ricordo il microfono, non è la marca, però non lo ricordo. Comunque il microfono è abbastanza buono. E più un apparato da mettere in BM, capito? Nel tutto avevo 200 euro. Cosa dici già? Se la farate come il mio, se la parte ci vale 200 euro, se la fate come il mio, Ah, è fatta a casa, come quello di mi stavano dicendo. Io bisognava essere là, perché stare fermi, gli apparati si rovinano. Positivo. Ma è tutto da provare, quello è vero. Prima provo, prima di dare i soldi, io voglio provare, perché non voglio prendere la cosa alla cieca, non mi va a prendere roba alla cieca, si accende, si prova a modulare, per vedere un po' se la radio è buona o bene. Cala, cala. Scappa e direi di un vento di lana rosa, io. Possiamo fare, provare. Infatti, io se ne riesco, perché per provarlo già devo scendere a Irola, capito? Lui vive a Irola adesso, capito? Non è più a Sassa. Ma tu mi hai detto che è in pensione, e ho chiedicato più o meno l'età mia, è un po' di meno. Sì, ma lui aveva avuto, ti dico lì, aveva avuto una paresi, una gamba, un braccio, capito, stava poco bene, se ti ricordi. No, questo non me lo ricordavo, no. Io lo conoscevo, era un bel ragazzo anche, c'aveva gli occhi tirati, proprio tipo cinese, dai, così, e il colore era un verde acqua, bello come colore di occhi. Ti ripeto, io l'ho conosciuto in verticale. Sì, una bellissima persona, veramente. E niente, ha avuto la struttura che gli è scesa questa a Parigi, l'aveva preso il braccio, la gamba, la piccola. E addirittura io sono dal centro, perché io andavo anche a casa sua, lui abitava nella scena di via Rosello, capito. E mica aveva terra a terra, aveva l'antenna proprio dentro l'appartamento, allucinato, guarda. Non lo so quello che sono andato a casa sua, io l'ho conosciuto in Italia, siamo conosciuti, ma ricordo anche il punto dove ci siamo conosciuti in Magliati. E avevo avuto dei ragazzi appresso, lui, quando c'era l'era dei CP, c'erano anche le ragazze. Ah, è positivo al centro. Ah, niente, io l'ho conosciuto già che poverino, l'avevo conosciuto tanti anni fa, quando lui faceva la guardia giurata, tranquillo. Poi ovviamente quando sono andato a proprio a farli vista di persona, cavolo, l'ho visto, infatti l'ho detto, guarda, mi scendevo un Parigi, mi ha preso il braccio alla gamba e non so, era in cura, poi l'ho perso di vista, non l'ho più sentito. E anche io, e anche Alessio lo conosce sicuramente, se lo ricorderà, e a voi. È un positivo, con voi lo conosce, a voi lo conosce, io, capito, riprendi Antonio. Ciao. E chi aveva messo questo filigato? Chi aveva messo Antonio te lo saprei neanche dire, perché avevo chiuso anch'io un periodo e non saprei. Sapevo che lungo durava da dentro questa casa, che poi era un cotturio, era casa, non era una casa, era piccole case vecchissime, era una cava, addirittura c'era la cucina, c'era fuori dentro, una pittola. Ma io sto parlando di una quindicina di anni fa, più o meno, Signore già se lo ricorda. Nell'82, nell'83-85 ha smesso di modulare. 82-85, quegli anni lì. Perché tu mi parla che 15 anni fa c'era? Io mi ricordo che era quello l'anno, poi Falchetto magari si ricorda male. Io nell'85 non mi ricordo più che ci fosse. Niente di strano già, che stia sbagliando io, confermo, niente di strano che stia sbagliando. E poi quelli sono gli anni, più o meno quel periodo, anche che fosse 87, dai. Esatto, siamo lì, dai. Adesso se io da parecchio siamo da 10 anni, è un marcellone. E bisogna vedere se è fermo, se l'ha fatto andare, bisogna vedere anche. Bisogna vedere magari l'accende ogni tanto. Che il gas, cosa ti credi da che anno è nato? Nel 80, no? Allora, vedi che sta funzionando. Eppure era fermo questo qua, perché c'era un radiomattone a quanto mi ha detto la persona che mi ha dato, e ce l'aveva fermo un mediano. Coperto, tutto, quello coperto e quello fermo. Ok ragazzi, dai, io faccio un attimo di pianto per carica, vai. Tutta a dopo, lascia così. Ciao ciao. Ciao ciao Falchè, non hai mangiato ancora? Allora ragazzi, non mi sa per arrivare, vai, vai, metto una cosa in bocca, poi le prendo subito, vai, vai. A dopo, ciao a tutti. Buon carica, ciao. Ciao, perché, ciao. La faccia. Era anche un pochettino ripiglionato, vero? Che cosa? Grazie. Io? Il mio l'ha controllato Vittorio dopo che ha messo per i pizzi. L'ha controllato e mi ha messo grazie a posto. Già ci dici quando me l'ha detto. Perfetto, dice tutto in ordine. Aveva solo quel problema di casa. Che ha fatto? Non mi sembra che l'aveva controllato tutto. Sembra che ti ha detto anche che ha controllato tutti gli allineamenti, l'ha messo tutto a posto. Cioè l'ha revisionato, l'ha controllato tutto prima di dartelo. Sì, quello lì perché li ha cambiati i finali, quando li cambia i finali deve per forza allinearlo. E qualche senti ma fuori fare questo. Invece così con i finali lo allini e basta. Sì, quello lì lo fanno sempre, quando ricavano i finali li allineano. Anche per vedere se sta funzionando bene lo fanno anche. Beh, c'è un tecnico che deve fare un po' tutto. Perché logicamente un apparecchio radio bisogna vedere tutti gli allineamenti, tutte le cose perfette. E se uno è un professionista, queste cose le fa alla stragrande. Cava, cava. Certamente che sì. Ah, Vittorio l'ho uscito la seconda volta. Una volta che te l'ha giusta, te l'ha aggiustata, e non fate più nulla. Ho preso io. Sì, sì, è giustamente così. Come che io voglia un apparecchio come questo? C'è qualcosa che non va, l'aggiusta quello, però dopo se lo controlla, se è tutto allineato, se va bene di tutto. È giustamente, perché deve essere così. perché loro hanno gli strumenti e attaccano, se lo controllano. Comunque con la radio là li hanno ritirate, se non sapessi della radio del cielo. Ma li hanno ritirate, meno male. Però ho fatto un po' di figuraccia. Beh, adesso non aspetto mai, vado io a piazzare, lasciate dei secchi. La figura che ho fatto, se a radio si chiama un tecnico, se le fanno piazzata. Io le avevo già piazzate in macchina, ma una non andava bene, l'altra si poteva anche lasciare, cioè anche le avevo già piazzate, le ho detto di comprare l'alimentatore per la stazione base, no? Gli ho fatto l'attacco del piede, dietro un quarto c'è anche il cavo rosso, l'attacco del piede, il fugato, devo prendere l'alimentatore, sì, ce lo prendiamo, ancora se la prende l'alimentatore, ma ti la bini luci. Io volevo che la stazione fosse pronta, quando erano pronte le radio, piazzare tutti via, stavamo andando. Invece così, aspetta l'alimentatore, adesso ci sono le fresche, tutto canto, campa a cavallo. Purtroppo è in mano, a chi è in mano la gestione del suo tutto qua. Quindi ti fanno solo una brutta figura perché non ti puoi fare niente, eccetera eccetera. Altrimenti se era stata una persona che avrebbe preso, avrebbe preso soldi subito, avrebbe fatto tutto subito, non c'erano tanti problemi. Beh, la testa! Natalino! Chi è questo? Natalino! Natalino! Chi è che mi chiamava, ragazza? Dove sei? Sto scendendo andare a prendermi su. Poi portali qua, Natalino! La poi dividiamo, usci te. E mi la regghiamo bene, se mi la regghiamo bene. Assai ero buono. Non lo so. Stammi ci vistata. È tutto dicembre. Cazzo, un collega già ha piccato, 1.500. Vediamo che sia anche così. Dice, va bene, già mi basta, no? Basta, ma a me non tocca tanto, ma ha ragione, qui c'è un'invagliata, qui là c'è nemmeno 1.200 qualcosa, cazzo 1.600, ed è single come me, se mi tocca 1.600 sono contento, la faccia di sposare. Se non beviamo la salita. No, no, già la salita, devo mandarci a girare lui. A giocare ai calamari. Papà si può dare questa, ma gli hai il piattone. No, la dieta, non puoi far rompere la dieta, che se vado lì, cazzo, mi porto la panza, mamma mia. Oh, io già ci ho mangiato un po' di ragnone, Natale, mi gioco tutto. Mi ho fatto una bella scorpacciata e mi sono ricordato di una persona quando li ho mangiati, come ogni volta che li mangiamo ce ne ricordiamo. Che persona ti sei ricordato? Antonio già lo sa. Ma c'era Antonio, avrà avuto, cade posso dire, avrà avuto 8 anni, massimo 9, era con Pierpaolo, lo facevamo a Cerone, sempre dove facevamo servizio ambulante, Pierpaolo ci aveva portato la moglie, i figli di Tugana, e Antonio aveva sugli 8 anni, e c'erano i figli di Daniello, no? Antonio si gli ha detto, chi si vede sono molti chi da me. Viviamo di cui siamo nei primi di anni, siamo a metà d'Antonio. Ma cazzo, più bello con il fratello a me, mi ti prendo io. E tu, guarda, c'è sta ne hai tu, ti lo rompi pure, Andrea. Sono andato in banca, si è fatto di Milano, ha tempo. Mamma mia, che ha lasciato i fermi nei bari di Napoli, bobo. Va più bene quello di Andiuno il baracchino in quella macchina. No, ma se non c'ha quello di Messico. Perché quello di Antonio, il problema che ha quello di Antonio, che in macchina non va bene perché si sente molto QRM. Qua è di lustro. No, quello lì non si sente nulla, già lo so. La radio l'avrei voluto amplificare un po', ma può darsi che si possa regolare da dentro, capito? Magari è chiuso qualcosa e non amplifica come dovrebbe. già, meglio di come, cioè, di come certi apparecchi che non si intende nulla, già è. No, quello sì. Quello sì, segnalati un bel forte, mica se segnalati un forte, è quello che mi dà crepo, che la radio non è allineata col segnale, perché il segnale arriva bene, la radio sì, è meglio di prima, ma non è un po' cupa rimane. Preoccupano a sé, dico la verità. Quello no. Non lo so. Il segnale non cambia mai, già lo credo che non cambia mai. No, tiene sempre il segnale, tiene già. Ma può darci che arriva in saturazione perché c'è troppo forte di segnale. Allora non riesce a espandere la radio. Il colombo da applicato, lo vedi, si espande. L'espande si può, espande il 500. E mi ricordo che manca, adesso che ma tu. Allora so, si è quadrato, la forma è brutta, ma c'è una modulazione che è caro mio, poca cosa vi dà, e manco il tanto che avrei vi dà così. Già lo so, l'Espander 500 è dalla Starner stesso. Lo so. Quelle linee CBR, Espander 500, quello che c'aveva Don Diego. Don Diego della Vega. Chi va a dire la risata, finalmente la risata. Ciao, salve. A te ne ricordi, Natali, quando facevo la risata, Don Diego? Allora, io ho fatto un bello spizio, c'è un spizio che fatta? No, c'è sbagliato, chi l'ha fatta? Siete tutti quanti muti, come hanno fatto il ristorante dove lavoravo, un amico, c'era una persona che non gli stava molto a giri, l'avevano smontato l'insalata e poi avevano girato tutto. E è andato questo in cucina, chi ha fatto l'insalata? Tutti quanti muti, perché sapeva la voce, ma non fa. Poi a un certo punto questo qua si è girato, ha detto comunque complimenti a chi l'ha fatta, era veramente buona. Yeah.